I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. La buona notizia nelle previsioni economiche della Commissione Europea diffuse ieri è che tutti i paesi dell'Unione sono tornati a crescere, ossia il segno più è presente in tutte le economie, sia dell'area euro sia dell'Unione Europea allargata. Per quello che poi riguarda nello specifico l'area euro, quest'anno si prevede una crescita media dell'1,6%, l'anno prossimo dell'1,8%, rivista leggermente al rialzo. Ma come sappiamo le medie sono anche le medie dei poli di Trilussa e questo vuol dire che nel caso specifico dell'Italia il nostro paese purtroppo pur crescendo continua ad avere una ripresa definita modesta, ossia la metà di quella media dell'area euro. Bruxelles fa notare che l'incertezza politica italiana e il lento aggiustamento del settore bancario restano dei rischi sulla ripresa stimata, così come a livello europeo rischi definiti eccezionali potranno arrivare dalle politiche intraprese da Trump e dall'effetto del negoziato sulla Brexit. Queste previsioni si collocano in un anno particolarmente elettorale per l'area euro, in primo luogo in Germania e in Francia, ed è per questo che Bruxelles è sembrata più guardare il bicchiere mezzo pieno che quello mezzo vuoto. A questo punto bisognerà vedere se le previsioni di primavera andranno a migliorare quelle di ieri, invernali, già in miglioramento su quelle autunnali, e verrebbe la voglia di dire: meno male che non ci sono più le mezze stagioni. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Anche l'Istat ha confermato oggi che per l'Italia nel 2016 la crescita del PIL è stata dello 0,9%, un decimale in più rispetto alle previsioni del governo. In effetti il dato di più 0,9% è lo stesso indicato ieri nelle stime della Commissione Europea, dalle quali emergono tutte le criticità attuali del nostro paese, dal debito pubblico alla disoccupazione, senza dire che la nostra economia anche nel 2017 è destinata a crescere meno di tutti gli altri paesi, con il PIL che segnerà solo un progresso dello 0,9%. Ma stiamo sull'Istat, si tratta di una stima preliminare, i risultati definitivi del 2016 arriveranno il 1 marzo e, visto anche l'ottimo andamento dell'indice della produzione industriale nella parte finale dell'anno, non è esclusa una revisione al rialzo delle stime, che potrebbero portare all'1% l'incremento del PIL nel 2016. Naturalmente siamo sempre a parlare di questi 0, eppure in questo caso è uno 0, molto atteso, perché il PIL a più 1% potrebbe avere un risvolto molto positivo sulla manovrina che l'Italia deve mettere in campo entro aprile per correggere i conti pubblici, come ci ha chiesto Bruxelles, per evitare la procedura di infrazione per deficit eccessivo. Secondo alcuni calcoli, un PIL 2016 meglio delle attese potrebbe ridurre l'importo della manovra dai 3,4 miliardi previsti a 2,5-2,6 miliardi, consentendo al governo di limitare il più possibile di agire sul fronte delle entrate, evitando in particolare di aumentare le accise su benzina e tabacchi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.